Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Allora io oggi vi pongo un interrogativo. C'è qualcuno che ha visto il tartufo di questi tempi? Ebbene, ce lo segnali, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Non solo ci segnali dove, ma ci segnali anche che costo, quanto costa quest'anno il tartufo? Ce n'è una grande quantità oppure non c'è per niente? Oppure, diciamo, non si trova per altri motivi, magari per irruzione qua e là di controlli fiscali, chi ha paura di comprarlo per far vedere che consuma, diciamo, cose molto ricche, molto costose. Ebbene, questo è un interrogativo sul quale cercheremo oggi di discutere. Voglio il vostro apporto, cari gastronauti, anche molto su questo, perché l'Italia è molto grande, ormai è diventata un'Italia dei tartufi. Anni fa si trovava tartufo da tutte le parti, quest'anno non si trova più. Ma ora cominciamo da quella che è la capitale indiscussa del tartufo bianco, anche perché si chiama tartufo bianco d'Alba, e andiamo a sentire che succede addirittura dal direttore Centro Nazionale Studi sul Tartufo, appunto di Alba, Mauro Carbone. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mauro, tu l'hai visto il tartufo? Beh sì, fortunatamente sì, ne abbiamo visti anche di belli, di buoni, di profumati, quindi sicuramente ci sono tartufi in giro. Non è vero che quest'anno non ci sono tartufi, sicuramente la stagione fatica un po' a entrare nel vivo. Ecco, perché questo? Per una questione di costi, sì, ma se ne è visto poco e a che prezzi? Ma non è un problema di costi, per ora è soprattutto un problema di quantità. La stagione ha sofferto molto il caldo e soprattutto l'asciutto di quest'estate. Le piogge sono arrivate, ma sono arrivate un po' in ritardo, compreso questa notte, piovuto, e quindi insomma siamo tutti convinti che la stagione ci sarà, anche se in grosso ritardo, probabilmente tra il mese di novembre e dicembre, insomma entro Natale i tartufi arrivano di sicuro nelle loro quantità che speriamo. È soltanto un problema di avere un po' di pazienza. Quindi un ritardo, beh, sarebbe un ritardo benefico, perché se lo abbiamo a Natale sicuramente c'è un modo così forse ancora migliore di celebrare questa festa, con un bel piatto, diciamo, di tagliolini o di altro. Ecco, sentiamo, c'è già un radioascoltatore, Alessandro dalla provincia di Chieti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Lei l'ha visto il tartufo? Sì, l'ho visto, sì, perché lo commercio, quindi praticamente questa stagione lo vediamo sempre. Ecco, in che area lei, in che quale territorio lo commercia? Allora, il territorio è l'Abruzzo, Molise, Marche, ecco, questa fascia qui. Un territorio molto ricco, tra l'altro, di tartufo, quindi sicuramente sì. Soprattutto in Molise. Sì, praticamente, anche se tutti dicono che il tartufo si trova in Piemonte, ad Alba, che è vero naturalmente, anche questa fascia dell'Italia dà il suo contributo. Senta, che prezzi sono di questi giorni? Quest'anno, causa meteo che non è stato molto favorevole, i prezzi sono abbastanza alti rispetto al passato. Quindi partiamo da un 250 letto a salire. Senta, io le voglio chiedere una domanda, diciamo, abbastanza, come posso dire, provocatoria, visto che lei è un commerciante di tartufo. Si dice che quest'anno sia anche un po' sparito così dalla circolazione, soprattutto per motivi fiscali. È vero questo? Bah, io tratto molto all'ingrosso, quindi praticamente questo discorso lo vedo in maniera molto limitata. Magari bisognerebbe parlare più con il ristoratore di turno. Ecco. Bene, grazie Alessandro, lei ha dato così un assist. Allora, se ci sono ristoratori, pronto, intervenite, numero verde 800 24 00 24. Ma ora vado dal presidente delle città del tartufo, Giancarlo Picchiarelli. Buongiorno Picchiarelli. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, c'è o non c'è quest'anno il tartufo, oppure costa caro? No, confermo quanto ha detto il dottor Mauro Carbone, nel senso che da alcuni anni assistiamo comunque a uno spostamento in avanti della stagione del tartufo bianco per ragioni climatiche, e quest'anno ancora di più accentuata perché la siccità è stata ancora più forte e poi ha colpito un po' tutta l'Italia. Insomma, in genere le regioni del nord erano meno esposte a questo problema, però già ci sono segnali positivi perché le piezzature cominciano a essere anche, diciamo, interessanti, considerando che il tartufo soprattutto è oltre l'80% è composto dall'acqua, quindi si capisce bene il rapporto diretto con l'umidità e le precipitazioni. insomma, siamo ottimisti. Sentiamo Roberta D'Asti, un'altra radioascoltatrice. Buongiorno Roberta. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Io, dunque, posso dare la mia testimonianza. Noi, io e mio marito, siamo dei consumatori esagerati forse di tartufo, ma essendo astigiani chiaramente per noi è una religione il tartufo. E devo dire che l'anno scorso effettivamente devo dire che ce n'era una quantità sicuramente notevole rispetto a quest'anno, cioè addirittura si arrivava così, ovviamente scherzo, ma ci si poteva permettere anche di grattarselo sul crème caramel, insomma, l'anno passato. Quest'anno invece c'è un pochino penuria. Noi abbiamo, come lo chiamo io, il nostro spacciatore di fiducia di tartufi e ecco, per organizzare una cena con amici abbiamo dovuto anticipargliela una settimana prima e lui fino all'ultimo ha avuto insomma difficoltà a procurarci un tartufo bene di qualità come beh, però alla fine l'ha trovato e quindi sicuramente alla fine almeno per una volta. Senta, un giorno siamo riusciti a toglierci la voglia. Quanto l'ha pagato? Dalle nostre parti l'ho pagato, non dico il doppio rispetto all'anno passato, ma un bel 30% in più. Ma mi dica la cifra. All'anno passato. Mi dica la cifra. Dunque l'ho pagato circa 400 euro. Bene, bene, grazie. Mauro Carbone, torno a te. Quindi diciamo che tu fai una previsione prossima. Sì, penso proprio di sì. È probabile che l'acqua che è arrivata faccia sì che nel mese di novembre inizi davvero a nascere tartufo. È difficilissimo fare previsioni certe, però insomma se il problema è innanzitutto di carattere climatico adesso va meglio, sta arrivando un clima autunnale, secondo le previsioni da oggi, da questa sera ricomincia a piovere e soprattutto comincia finalmente a fare freddo, questo vuol dire tartufi che maturano più facilmente, tartufi nuovi che nascono, vuol dire anche condizioni ideali per una buona maturazione, quindi profumo che migliora ancora rispetto a quello delle ultime settimane, che comunque dal punto di vista qualitativo non era male. Certo che comunque siamo già a 4.000, quindi insomma diciamo che il prezzo è abbastanza alto. Beh, ovviamente dipende dalla quantità, quindi speriamo veramente che per Natale ci si possa permettere un buon tartufo. Grazie a Mauro Carbone e a Giancarlo Picchiarelli. Io passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, specialmente Luigi, questo radioascoltatore da Macerata. A fra poco. Con Sara Free, meno guidi, meno paghi. Fai una quotazione su sara.it. Vi presenta Strade in diretta. Sul tratto appenninico dell'Autosole si resta in coda nelle due direzioni. Sulla carreggiata verso Firenze si viaggia lentamente da Pian del Voglio fino a Calenzano. A poca distanza l'uno dall'altro ci sono un incidente e un mezzo fermo in avaria. Anche in direzione Bologna un veicolo fermo in panne con code tra Barberino e Roncobilaccio. Hanno raggiunto i 5 km di coda, le code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e Cologno in direzione di Venezia e si rallenta ancora per un incidente sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Palmanova e Villesse. Noi torniamo tra mezz'ora. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tartufo. Chi l'ha visto? L'avete visto? E quanto l'avete pagato soprattutto? Questo è un po', diciamo, il leitmotiv di questa trasmissione. Abbiamo già diversi sms, anche oltre telefonate, e tutti mi dicono, ad esempio, questo signore che telefona dalla provincia di Pisa dice che alla sagra del tartufo a Forcoli, provincia di Pisa, c'è stato grande abbondanza. In Umbria, mi dice Giancarlo da Perugia, c'è nell'abbondanza, insomma vuol dire che solamente io non l'ho visto. Boh, un po' strano questo, perché vedo che nei ristoranti e nei negozi in giro se ne vede ben poco, forse è tutto clandestino e questa è una cosa che ripeto. Va bene, sentiamo Luigi dalla provincia di Macerata. Buongiorno Luigi. Pronto? Prego Luigi. Pronto, vorrei sapere se vi è stata una modifica alla normativa precedente. I ricercatori di tartufo devono avere il patentino, ma non erano soggetti ad IVA, quindi i tartufi raccolti li vendevano senza fattura. Bene, guardi, abbiamo con noi addirittura in linea due grandi, diciamo, esperti del settore, come posso dire, addetti ai lavori. Abbiamo Giancarlo Marini da Acqualagna. Buongiorno Marini. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ha sentito questa telefonata del patentino? Beh sì, il patentino è l'abilitazione alla ricerca del tartufo, ma naturalmente quell'abilitazione lì poi scarica tutti i costi della vendita del tartufo sui grossisti, sugli imprenditori e sui commercianti che si debbono fare l'autofattura e versano a titolo totalmente indetraibile il 21% su tutto quello che scrivono. Bene, grazie di questa delucidazione. Marini, lei l'ha visto il tartufo quest'anno? Ma certo che l'ho visto, ma io non riesco a capire tutti gli interlocutori che precedentemente ho ascoltato, che sembra una trasmissione dello scomparso o della cosa che non si trova più. La mia è una provocazione. Ma non è una provocazione, innanzitutto prima quando ho sentito che si parlava di capitale del tartufo e lei ha parlato di Alba, quanto invece ormai siamo quasi stanchi di ripetere che la vera capitale del tartufo, mi scusi ma lo debbono sapere tutti, è Acqualagna. Bene, bene. Questo non per questo, per quello che riguarda le quantità di tartufo che sono ma veramente superiori a qualsiasi altro territorio, ma soprattutto perché noi abbiamo tutte le varietà di tartufo, abbiamo festa tutto l'anno, mentre ad Alba, finiti questi 4-5 giorni di festa, di tartufo non se ne parla più, qua in Acqualagna tutto l'anno è una festa, tutto l'anno la gente può venire a gustare i tartufi di tutte le varietà, quindi è l'unico territorio, perché è capitale del tartufo? Perché da noi nascono tutte e sette le varietà. Perché si chiama tartufo d'Alba. A noi dispiace quest'anno che la produzione ce l'abbiamo, ma non possiamo darli agli altri, quindi gli altri gli vengono a mancare i tartufi, perché non hanno i tartufi d'Acqualagna, quindi bisogna venire qui per degustare i tartufi, bisogna fare la cosiddetta filiera corta. Bene, sentiamo da Alba se c'è qualcuno che interverrà dopo, però ora andiamo in Toscana e sentiamo se anche Savini è d'accordo su questo. Buongiorno Savini. Ciao, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Qual è la situazione in Toscana? Sentiamo in Toscana. La situazione è una situazione un pochino precaria, un pochino difficile come lo scorso anno, nel senso che grande quantità di tartufi onestamente non ce ne sono state, complice il caldo prolungato, un po' come l'anno scorso la stagione è partita in ritardo. Devo dire che per fortuna la qualità è una qualità importante, si comincia specialmente negli ultimi 10 giorni a avere un tartufo bianco veramente molto profumato. Sentiamo... questa è la situazione che abbiamo qui nella zona di Forco, nella zona di San Miniato. E scusami Davide, ma l'altra ho sentito in preascolto la telefonata che a Forcoli c'erano tanti tartufi. Sì. Io onestamente a Forcoli ci sono, anche perché la fiera del tartufo di Forcoli l'ha creata mio nonno, Gerindo, e siamo molto legati a questa manifestazione, anche se pur paesana, e noi partecipiamo sempre, diamo il nostro contributo. Devo essere sincero, come quest'anno non mi sono mai trovato in difficoltà e anche un po' di vergogna, perché ne avevo pochi, figuriamoci. Ripeto, la qualità è una qualità importante del tartufo di San Miniato, dei collini sanminiatesi, che appunto è quello che domina la nostra zona. Però la quantità onestamente non è molto elevata. Bene, grazie Savini di questo intervento. Così, questo era un sms di un radioascoltatore forse un po' eccitato. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Susanna da Ferrara, una radioascoltatrice. Buongiorno Susanna. Pronto, buongiorno. Sì. Io volevo lasciare la mia testimonianza. Io ho visto il tartufo, l'ho visto sia a Sant'Agata Feltria, dove andiamo praticamente tutti gli anni, che ad Alba. A prezzi diversi. Mi dai i prezzi? Quindi non so se si può dire. Certo, come no? Qui si può dire tutto, anche esagerare, come anche una trasmissione di 2 anni fa in cui un commerciante di Acqualagna lanciò un prezzo che era veramente inverosimile, basso, che poi non era reale. Comunque dica... Perfetto, dica. Allora io lo dico. A Sant'Agata, essendo una località probabilmente più piccola e quindi, non so, meno rinomata, ma bella da vedere... L'abbiamo visto tra i 250 e massimo 350-400 euro. Ad Alba già i prezzi cambiavano. Io l'ho visto tra i 400 e i 600 euro. Quindi... Quindi lei l'ha visto dovunque, insomma. Ma ce n'era tanto, sì, o ce n'era poco? Capito la linea. Pronto, Susanna? Vabbè, Susanna è partita, non la sentiamo più. Abbiamo anche un sms che dice Molise, vera capitale del tartufo. Io sono molto vicino a questo. Ma ora andiamo a San Pietro Avellana, provincia di Isernia, che è una capitale, una delle capitali del tartufo, poco conosciuta, ma sicuramente una capitale importante. Buongiorno Alberto Ricci, del ristorante Perticone. Come sta Ricci? Bene, grazie. Lei? Bene. Senta, com'è la situazione del tartufo quest'anno? Beh, quest'anno la situazione è un po' macra, sì, perché praticamente non ce n'è molto. La qualità è buona, la qualità comunque è ottima, però la quantità scarseggia. Quindi vedo interventi pacati da ovunque, escluso Acqualagna, insomma, succede come due o tre anni fa. Beh, è pacata, quindi vuol dire che ce n'è, è carente, insomma. Sì, sì, sì, è carente. Cioè, carente perché almeno in questo periodo, l'anno scorso, paragonandola all'anno scorso, c'è cioè molto, molto di meno. Ho capito. Senta, Ricci, a che prezzi va mediamente il tartufo da voi? Ecco, adesso vi faccio un esempio. Mentre l'anno scorso i tartufi fino a 18 grammi venivano comprati come scarto, quest'anno già da 10 grammi vengono comprati come buono a 2.200-2.300 euro al calatore. Quindi in vendita nei negozi si possono trovare intorno al 2.800-2.900-3.000 euro al chilo. Ho capito. Senta Ricci, visto che non tutti conoscono San Pietro Avellana come capitale del tartufo e forse anche come gastronomia, noi ci siamo già sentiti altre volte, però ci dà qualche piatto tradizionale appunto del suo territorio fatto col tartufo? Ma guardi, noi abbiamo fatto sempre come piatto delle tagliatelle al tartufo, che praticamente sono diciamo il piatto per antonomasia, per far assaggiare di più il tartufo, quindi quelle fatte in casa e poi lavorate con il tartufo, con prodotti fatti ad esempio con il tartufo fresco, quindi senza creme, senza oli aggiunti, con burro al tartufo fatto nelle proprie case praticamente. Okay. Questo è il prodotto nostro del paese. Senta Ricci, voi, anche voi prevedete come Alba, come si prevede da altre parti, un miglioramento con un tartufo forse natalizio? Noi sì, noi stiamo prevedendo che forse dal 15 novembre parlo in poi ci dovrebbe essere qualcosa, perché praticamente qui c'è stata una carenza di acqua. Ho capito. Praticamente non è piovuto per tutto il mese di giugno, luglio, agosto, ha fatto solamente un po' d'acqua il mese di settembre, diciamo la scorsa settimana, oggi ha ricominciato a piovere, quindi era è come se quando si camminava nel bosco era come camminare sull'asfalto. Ho capito, bene, grazie Alberto Ricci, ristorante Perticone a San Pietro Avellana, provincia di Isernia. Sentiamo Marco da Torino, un radioascoltatore, buongiorno Marco. Prego. Ma io vorrei rispondere al signore di Acqualagna, io capisco la difesa del campanilismo a oltranza, però se la capitale del tartufo è Alba, credo che sia un problema non tanto e non solo di quantità quanto di qualità. Adesso il tartufo nero, per carità, ma niente a che vedere con quello di Alba. Se poi vogliamo discutere sul fatto che la produzione di Alba non sia così grande, posso anche essere d'accordo, si dimentica però che Alba prende il tartufo da molte zone dell'Astigiano, spesso dimenticate, penso a Murisengo, penso a Montechiaro, penso a Moncalvo, che hanno un tartufo di primissima qualità e che poi viene portato sul mercato di Alba. Liquidare la festa del tartufo di Alba come 4 giorni mi sembra, fa sorridere, certo. La fiera internazionale del tartufo di Alba dura 1 mese e mezzo, non 4 giorni, e allora vuol dire che forse di prodotto ce n'è un po' più di quello che sostiene la persona di Acqualunga che ha parlato prima, ecco solo questo. Senta Marco, lei è del settore? No, io sono mi piace mangiarlo. Bene, bene, grazie. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Sentiamo Italo dalla provincia Monza Brianza, buongiorno Italo. Buongiorno. Prego. Niente, io anch'io volevo confermare che a Sant'Agata Feltrea, paesino piccolo, però il tartufo bianco ce n'era, anche quello nero, tutti e due, sia che veniva da Acqualagna, anche di Città di Castello, e i prezzi si aggirava con più o meno anche un po' di più di quella che ha detto la signorina prima, che ha telefonato prima di me, che parlava appunto di Sant'Agata Feltrea. E niente. Lei quanto l'ha pagato, Italo? Io l'ho pagato sui 3.500, quello un po' pezzatura un po' grossa, perché i prezzi lo fa anche la pezzatura, quindi secondo me, però io ho visto così almeno. Io mi piace molto mangiarlo, mi piace anche assistere quando vanno a raccoglierlo, Bene. La qualità c'è. Grazie della testimonianza. Incomincia adesso, il prodotto più buono inizia adesso perché è un po' in ritardo, come avevate detto. Grazie della testimonianza. Bene, io ora devo annunciare una iniziativa veramente molto divertente, fatta tutto attraverso internet, attraverso Facebook, e si chiama Parmigiano Reggiano Night. Ebbene, stasera alle 8 dal Salone del Gusto, e Massimo Bottura detterà una ricetta particolare fatta col parmigiano reggiano, e la cosa divertente è che oltre 5.000 che si sono iscritti a Facebook questa sera cucineranno a casa loro un piatto con il parmigiano reggiano. Ebbene, chi si vuole iscrivere può appunto iscriversi su Facebook Parmigiano Reggiano, Consorzio del Parmigiano Reggiano, perché appunto ci sarà questa grande lista appunto di fans che questa sera alle 8, quasi come quando si accendono le candele o si spengono le luci, mangeranno un piatto di pasta, e molti sicuramente seguiranno il consiglio di Massimo Bottura, che presenterà, svelerà una ricetta, ma io vi dico già che sarà una ricetta a base di riso, quindi ascoltatelo. Bene, ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, ricordatevi il numero verde 800 24 00 24 e segnalateci se avete visto il tartufo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a Chi l'ha visto, e lo ripeto, chi l'ha visto il tartufo, perché in giro per le città il tartufo non si trova o si trova rarissimamente, con prezzi veramente pazzeschi, quindi devo dire che è assolutamente molto difficile da comprare. E c'ho un sms a proposito davvero divertente, che mi dice un radioascoltatore: se lo troviamo, se lo mangiamo, lo veniamo a dire a lei se troviamo i tartufi con quest'aria che tira, che vogliono tassare anche l'aria, le pare signor Paolini? Bene, quindi questo credo che sia molto ma molto significativo. Comunque continuiamo a girare l'Italia. Sentiamo prima Massimo da Ferrara, un radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno Paolini, complimenti. Grazie. Guarda, io volevo semplicemente fermare un attimo sulla definizione che ho io personale di tartufo. A mio parere il tartufo è semplicemente il tartufo fresco, qualunque abbinamento poi si voglia fare, ma il tartufo è fresco. Si trovano salsine che snaturano, a mio parere, la vera essenza del tartufo, oli o altri artefatti. Oli e tartufati non ne parliamo, ecco. Cioè io evito. Sia un'offesa per il tartufo, perché, ripeto, qualunque cosa si faccia, anche un semplice uovo con sopra una grattugiata di tartufo fresco, rende molto di più che qualsiasi altra porcheria. Ecco, io sono ferrarese, nella mia zona c'è una manifestazione, ecco, che offre questi prodotti artificiali, definiamoli artificiali, sì. Ma a mio parere la patria del tartufo, io giro parecchio per lavoro, verso Nova Feltria, lì è una zona dove si può apprezzare veramente il tartufo. Sicuramente c'è un posto che conoscerà anche lei, il ristorante da Marchesi di Nova Feltria, che è famoso. Bene. Per proporre sempre piatti con il tartufo, ma semplicemente volevo scambiare con lei. Grazie. Questa mia espressione, perché credo che il tartufo sia fresco. Bene, grazie Massimo. Massimo da Ferrara, ora continuiamo questo giro, andiamo in provincia di Bologna, sì, perché a Savigno è una delle capitali del tartufo, e andiamo da Alberto Bettini, conosciuto forse più come Amerigo, il ristorante, ma non solo. Amerigo non è solo un ristoratore, ma anche produce una serie di prodotti davvero ottimi. Buongiorno Bettini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiedo a lei, che è persona molto seria, a Savigno si trova il tartufo quest'anno? Beh, il tartufo si trova, al di là di facili campanilismi di vecchio stampo, insomma, si trova poco, come da tutte le altre parti. D'altronde il tartufo, il fascino del tartufo è anche quello, no? Bisogna andarlo a cercare, bisogna anche apprezzare le stagioni un po' critiche come questa qua. D'altronde sono i primi giorni un po' di fresco dopo un'estate veramente calda e lunga. Forse anche i cani non avevano tanto voglia di andare nel bosco con 30 gradi, chissà, probabilmente è spostato in avanti, come dicevano chi mi ha preceduto negli interventi, insomma. Quindi rimanga con noi Alberto, sentiamo Franco da Padova, un altro radioascoltatore. Buongiorno Franco. Buongiorno, mi chiamo Franco e faccio il commerciante di tartufi. Ah, bene. Da 30 anni mi interesso di tartufi e da 50 mi interesso di gastronomia. Allora, un presupposto: i tartufi non si dividono Alba, Qualagna, Abruzzo, oppure Crete Senesi, ma si dividono in due categorie, buoni o cattivi, a prescindere da dove vengono. Sì. Punto. Ecco, poi un'altra cosa, io ho altre notizie sui tartufi, a Sant'Agata Fete, lei capisce che io li basti con questi posti perché è il mio lavoro, mi definisco un aspirante gourmet, nonostante i miei 70 anni. Allora, a Sant'Agata Fete ce ne sono pochissimi, qualche consumatore o qualche amante del cibo, passando per le bancarelle di Sant'Agata Petria, vedono mezzo chilo di qua, mezzo chilo di là, che è un terzo di quello che c'era l'anno scorso. Addirittura si vende molto in nero perché è sostitutivo del bianco. Io ieri ho pagato i tartufi bianchi di qualità media, per non dire anche un po' meno, li ho pagati 2.800 euro al tartufaio. A Milano, in qualche negozio che non faccio il nome, stanno vendendo i tartufi a 9.600 euro al chilo. Queste sono notizie sulle quali ci metto la mia testa. Bene, guardi Franco, lei ha detto molte, molte verità, si sta gabbando molto e sicuramente ha ragione lei quando così fa anche un excursus nazionale e dà dei prezzi. Io a Milano 9.800 non li ho visti, però li ho visti a 8.000. Grazie Franco della sua testimonianza. Bene, ora andiamo anche in un'altra area di tartufo, che anche questa fino a qualche tempo fa per me era sconosciuta, però poi l'anno scorso ho scoperto che c'erano i tartufi. È la zona di Muzzana, in provincia di Udine. Buongiorno a Vittorino Gallo, fondatore dell'Amatore Tartufi e sindaco del paese anche. Sì, Vittorino, sì. Allora, troviamo tartufi quest'anno? Buongiorno Davide a tutti gli ascoltatori. Il tartufo purtroppo si fa attendere in quantità. Diciamo, abbiamo assistito nel primo periodo, quindi ottobre, ad una, direi non un'assenza totale, comunque a una piccolissima presenza. E quello che auspichiamo è che, comunque sentendo un po' anche quelli del centro Italia, comunque diciamo gente in qualche maniera esperta, mi è sembrato di capire che potrebbe presentarsi a metà fine novembre, e questo vedendo anche un po' quello che sono i, che vediamo anche l'andare dei funghi, diciamo quelli che erano le altre, le famigliole, per dire i chiodini, si sono presentati con un mese, più di un mese di ritardo, quindi pensando che la cosa possa replicarsi anche col tartufo, noi siamo molto fiduciosi che questo possa avvenire. Bene, grazie a Vittorino Colombo, Vittorino Gallo, scusa, Gallo. Grazie a Vittorino Gallo, appunto di Muzzana. Allora sentiamo Massimo da Roma, radioascoltatore, buongiorno Massimo. Buongiorno. Volevo far presente un fatto, una distinzione notevole che c'è nel tartufo, tra tartufo invernale, che è il melanosporum, sì, e il tartufo estivo. Bene. Perché certe volte viene venduto, come anche in questo periodo, il tartufo estivo che è stato conservato. La differenza di qualità tra tartufo invernale e tartufo estivo è notevolissima. Capito? Quindi ecco, tenere presente bene, grazie Massimo da Roma. Torno a Alberto Bettini, vado a Savigno, ma Alberto ha un ristorante, anche un ristorante a Bologna, quindi sicuramente non usa solamente tartufi della sua terra. Alberto, hai sentito anche gli altri mercati, diciamo gli altri mercati dei tartufi, quindi i prezzi e la realtà? Sì, beh, i prezzi sono quelli che sono più o meno detti. Io poi ho un mio pensiero sul tartufo, ed eticamente non pago cifre più alte di quello che ho, che per me è il valore del tartufo bianco. Quindi ad oggi i tartufai, noi siamo qua da quasi 80 anni, e chi mi dà il tartufo a un prezzo giusto lo ascolto. Quelli che sparano cifre alte perché se ne approfittano del fatto che ce n'è poco, li lascio liberi di andare a vendere dove vogliono. Io voglio mettere in tavola ad oggi il tartufo non più di 3,5 euro al grammo, perché altrimenti poi un piatto va a costare troppo, quindi per me quello è il limite. Non acquisto più di 2,5 euro in monte vuol dire piccolo, grosso, la pallina di scarto, il calo, quindi alla fine vendendo 3,50 10 grammi di tartufo, che sono quelli che ho sempre messo e sempre metterò, fanno 35 euro. Capisci che poi magari con una tagliatella, due ova sotto, va a 45 il piatto. Secondo me questo è già un limite massimo, però onestamente se si vuole lavorare il tartufo, quest'anno i prezzi sono quelli. A Bologna, nel punto vendita di Italy, che seguo la parte dove seguo la parte gastronomica, non usiamo il bianco perché quest'anno ci limitiamo solamente al tartufo nero, perché è troppo caro. Ho capito. Senti, hai notizia dei mercati vari italiani, Molise, Marche, Sì, io conosco anche un bel po' di commercianti di tartufo nella mia carriera, ne ho conosciuti tanti. Certo. E ho capito che il prezzo è sempre uniforme. Ultimamente nel giro di mezza giornata i prezzi si adeguano. C'è un cartello, quindi c'è un cartello. Più che un cartello è un adeguamento. Cioè, si sa che le palle grosse scelte, quelle diciamo superiori, i pezzi superiori ai 50 grammi vanno quasi sempre all'estero. Ormai le nuove rotte portano verso la Cina, la Russia, oltre che verso le classiche mete londinesi, newyorkesi, oppure Alba, che comunque, che se ne dica, è sempre il centro più importante di smistamento di tartufo bianco in Italia, oltre che di produzione naturalmente, non è che smistamento vuol dire che sì, comprano certo. Solo. Però poi tutto quello che è la pezzatura media e piccola, che non è tartufo di scarto, se è solamente media e piccola, la qualità per me è uguale, fa un prezzo quasi unico in Italia. Certo. Poi chiaramente ci sono delle punte che in un negozio in centro Milano chiaramente certo. Saranno più alte rispetto al paesino dell'Appennino tosco-romagnolo. Esatto. Bene, grazie Alberto Bettini. Sentiamo Davide dalla provincia di Frosinone, un radioascoltatore. Buongiorno Davide. Salve, io sono un giovanissimo cercatore di tartufo, sono qualche anno che vado e volevo segnalarvi che quest'anno non c'è niente. Niente. E la cosa che però, la mia critica è che negli anni passati da Alba scendevano a comprare tartufi bianchi nelle nostre zone e lo rivendevano come tartufo di Alba. Cioè, questa cosa è scandalosa. Certo. Aumentavano i prezzi spropositati di una cosa... Lei lo può dimostrare questo? Sì. Può dimostrare. Cioè, comunque... Chi è cercatore sa benissimo questa cosa. Sì, no, lei si assume la responsabilità di quello che ha detto, insomma, non voglio responsabilità ma guarda, su questa battuta. No, io so per certo che ci sono negozianti che vengono dal nord per comprare i tartufi da tutte le zone d'Italia, rivendendolo comunque il tartufo d'Alba, è rinomato, basta che ci scrivi tartufo d'Alba, sembra chissà la differenza, comunque la qualità è superiore degli Alba rispetto agli altri tartufi, però... Bene. Ha finito? Sì, non è una piccola critica. Benissimo. Grazie a Davide della provincia di Frosinone, cercatore di tartufi, cavatore di tartufi. Bene, ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi, numero verde 800 24 00 24, fra poco. Il gastronauta. Consigli per gli acquisti prima di continuare. Allora oggi allegato al Sole 24 Ore ci sarà la guida alle birre, c'è già perché siamo già a mezzogiorno, quindi ci saranno le birre artigianali, una delle guide del gastronauto, 240 birrerie artigianali segnalate con tanto di scheda in tutta Italia. Bene, continuiamo, riprendiamo con il tartufo. Con il tartufo abbiamo detto, ma io direi che forse alla fine di questa trasmissione più chi l'ha visto, l'interrogativo è: ci sarà a Natale? Questa secondo me è un interrogativo abbastanza interessante. Sentiamo Silvio, un radioascoltatore dalla provincia di Salerno. Buongiorno Silvio. Buongiorno. Devo chiedere una cosa, che praticamente non è possibile che la carenza di tartufo possa essere data da un'acidificazione del terreno, dato dalle piogge acide, dall'inquinamento? Bene Silvio, guardi, abbiamo due grandi esperti con noi. Tra l'altro devo dire che ho fatto una birichinata, perché ho messo proprio in fondo alla trasmissione due toscani, di San Giovanni d'Asso e San Miniato, che sono abbastanza concorrenti in un certo senso. Vero Luca Fontanelli? Buongiorno Luca Fontanelli. Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Commercianti. Non mi sono offeso se siamo in fondo alla scaletta. No, ma vi ho messo apposta proprio per dare pepe, perché siete due toscanacci. Quindi quando ci parla di Toscana e di rivalità fra borghi sicuramente è dura. Molto gentile, intanto complimenti per la trasmissione che è molto, molto giusta. Senta... Ascolti, sarebbe da rispondere a qualche quesito che è stato posto un po' male, se questo mi accetta un attimino. Come no, l'accetto come? Ma qui parlano di capitale del tartufo di Alba e va bene, il signor Mauro Carboni credo sia stato il primo che ha fatto questa premessa. Poi ho sentito la capitale del tartufo di Acqualagna, il signor Marini. Sì, esattamente, esattamente. Ma lui ha detto soltanto quella quantità e la varietà di tartufi che ha. Si è scordato una cosa principale, la qualità. La qualità del tartufo. Io sono un commerciante di tartufi, lo premetto. Ho un'azienda che, pensi, 10 anni fa ha festeggiato 100 anni di attività, quindi del Saminiato, quindi un po' di esperienza l'abbiamo fatta anche noi. E quando sento dire queste cose, insomma, qualcosa tocca anche a noi di Saminiato. Noi, se lei sa benissimo, so che è del settore, commerciamo i tartufi con i cosiddetti fazzoletti di stoffa. Le ha presente? Quelle, sì, certo, certo. Le legacce, sì. Chiamatele come volete voi. Quando noi di Saminiato consegniamo 2, 3 kg, 4 kg di tartufi, in fondo alla legaccia non ci rimane né sbricioli né niente. Quindi vuol dire che il tartufo di Saminiato ha un peso specifico proprio spiccato, è fatto bene, non ha difetti, non si sbriciola. Ecco perché il nostro tartufo va per la maggiore. Qualcuno se ne è scordato, ma tengo a precisarlo. Questo per fare chiarezza sul prodotto nostro. Bene, rimando al... Sì. Cioè, il signore diceva se avremo dei tartufi a Natale, sì. Mi sembra aver capito. Sì, certo. No, mi sembra che se siamo in linea, credo che qualcosa di più a Natale dovremmo avere, perché è un paio d'anni che a Natale ci arriviamo proprio col fiato corto. Penso che sia l'annata che potremo mangiare tartufi buoni a Natale. Anche qui da noi, come ho sentito prima, il tartufo è 10 giorni che comincia ad essere buono, comincia ad essere bello, comincia ad essere tartufi di prezzatura anche abbastanza notevole. Quindi vediamo un attimino, io penso che si va nella strada migliore. Ecco tutto qui. Rimanga con noi, sentiamo Valentino Berni, presidente dell'Associazione Tartufai Crete Senesi di San Giovanni d'Asso. Buongiorno Berni. Buongiorno, ho sentito subito ecco, appunto. Un bel intervento da parte di un altro toscano. Beh, chiaramente come tutti dicono il suo tartufo è sempre, ogni persona ha il tartufo migliore, nel senso ogni regione ha il suo e meglio degli altri. Beh, a noi questo non ci interessa, fondamentalmente noi operiamo nel settore per cercare di produrre e di mantenere il più a lungo possibile i tartufi e quindi... Meglio no, poi lo sceglierà il consumatore finale. Senta Berni, a che prezzo va in questi ultimi giorni che sembra che il tartufo abbia cominciato così a apparire, non dico in abbondanza, ma insomma in quantità discreta, a che prezzo va da voi? Beh, da noi attualmente è un prezzo straelevato, il più elevato che abbiamo negli ultimi anni, insomma. Quanto? Diciamo, sì, in questo periodo è il più elevato di sempre. E siamo sui 3.500 il piccolino, a salire fino a 4.000-5.000 velo grande. Fontanelli, invece da lei, da San Miniato? Ma saluto intanto il signor Berni che ha fatto le affermazioni giuste anche lui. Però loro forse sono un po' più sfortunati questa. Noi qualcosina in più rispetto a loro abbiamo, sicché qualcosina meno di prezzo possiamo avere. Ecco tutto. Quindi sotto i 3.500? No, cioè dai 3.000 ai 3.500 con 4.000 le punte dei tartufi proprio che fanno la differenza, diciamo. Bene. Si può arrivare lì. Beh. Volevo dire una cosa per concludere. Sì. Se non le rubo più tempo poi. Prego. Voglio sottolineare che noi il fine settimana di novembre, per esattezza il 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25 novembre, abbiamo la mostra del tartufo di Saminiato, la mostra mercato nazionale. Certo. Quindi invito chiunque a vedere i nostri cestini, come sono fatti i nostri tartufi, perché qualcuno mi sembra che abbia dei dubbi ancora sulla nostra qualità. Va bene, grazie. La saluto, molto gentile. Grazie a Fontanelli. Prego. Berni, rimanga ancora un momento con noi. Sentiamo Giuseppe da Ragusa. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Mi dica. Complimenti per la trasmissione, che lo seguo sempre quando posso. Niente, volevo... lavoro nell'ambito della ristorazione, quindi volevo portare a conoscenza che anche qua in Sicilia abbiamo dei buoni tartufi. Bene. Ecco, tipo lo scorzone estivo che si trova nei boschi del Siracusano vicino a Palazzo Lagrede, o l'uncinato dei Nebrodi, che sono tartufi molto profumati, molto, molto buoni, ecco, non del livello di quelli di Alba, però ci difendiamo. Grazie, sentiamo Leandro D'Asti, un altro radioascoltatore. Buongiorno Leandro. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, anch'io volevo portare un po' la mia testimonianza, visto che sono qui della zona, a due passi da Alba, l'Astigiano, il Monferrato, che è una zona proprio classica del tartufo, come è stato detto da vari suoi telespettatori. Quello che volevo puntualizzare, quello che è importante sul tartufo, è il terreno in cui cresce, perché è lì che viene fuori la qualità. Sentivo prima l'intervento lì dei, dei signori della Toscana. Sì. Sicuramente anche il tartufo toscano è uno dei migliori, perché c'è un tipo di terreno che è molto simile a questo qui delle zone, delle Langhe, del Monferrato. Sono terreni particolari in cui il tartufo prende anche un sapore diverso dagli altri. Ecco, è una puntina, cioè volevo anche con i commercianti, c'era un signore di Padova prima, ecco, bisogna fare attenzione, perché poi il commercio porta a prendere tartufi anche di fuori. Io so, vengono fuori dei tartufi dal Marocco, non per, cioè, per sminuire, però ovviamente non possono avere la qualità che c'è dei Bene. Tartufi che crescono sui terreni Grazie. Italiani. Grazie Leandro d'Asti. Valentino Berni, un'ultima battuta, volevo chiederle, anche voi avete una manifestazione particolare? Sì, noi abbiamo una manifestazione il secondo e il terzo fine settimana di novembre, che è la mostra mercato del tartufo delle Rete Senesi. Questa manifestazione quest'anno inizierà con anche, ci sarà all'interno anche un bel convegno per far diventare il tartufo patrimonio dell'UNESCO. Per la cultura e la tradizione che ha nelle nostre terre, nei nostri Bene. Territori, in tutta Italia, ma anche e soprattutto in Toscana, chiaramente. E poi chiaramente ci sarà tutta la mostra con la vendita dei tartufi, dei nostri tartufi. Bene. Il signore che ho sentito prima delle Langhe conosce molto bene e ha capito perfettamente come sono i tartufi toscani. Bene, speriamo allora durante la mostra mercato di trovare in abbondanza i tartufi che costino meno. Bene, questo è un invito che faccio ovunque per Natale. Speriamo che sia un Natale in cui ci si possa permettere magari un piccolo tartufino, se capita, perché anche cioè, 2000-2005, insomma, come ha spiegato bene Bettini, il costo sale rapidamente anche con una grattata sulle tagliatelle. Bene, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Chi l'ha visto e la cambio. Speriamo che ci sia, speriamo che io me la cavi a Natale, insomma, riferito al tartufo. Io vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e 23.05.